English 24. Buonasera da Marta Cagnola. Proseguiamo con le puntate estive del nostro English 24. Riascoltiamo insieme le puntate che più ci hanno appassionato e divertito, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo, della cultura, dell'attualità, dello sport, ovviamente solo ed esclusivamente in inglese. In tanti ci hanno tenuto compagnia in quest'ultima stagione di English 24. Ora torniamo con la memoria insieme a Giulia Crivelli al 4 febbraio scorso, una puntata in cui abbiamo chiacchierato al telefono con una straordinaria cantautrice americana. Questa sera parliamo un po' di musica perché parliamo di una cantautrice americana che io adoro. Lei è di Buffalo, si chiama Ani DiFranco, dal cognome si capisce che è di origini italiane, è bravissima, è una delle più ascoltate secondo le statistiche del mio iPod. E adesso sta uscendo con, è appena uscita con un nuovo album, il titolo è Which Side Are You On, quindi da che parte stai? In realtà, arriva da una canzone molto famosa di un artista molto famoso che ha anche una certa età, ma insomma lo facciamo subito raccontare da lei stessa, da Ani DiFranco, che ci ha concesso questa intervista telefonica direttamente da Buffalo. Well, I've worked on this new record for, you know, over the course of 3 years. And during that time, I was invited to play at Pete Seeger's 90th birthday party. And I was asked to play Which Side Are You On at his birthday party. So I learned that old song for that occasion. And then I started playing it in my live set on stage. And, you know, because I sort of... When I started learning it, I immediately started rewriting with it, you know, tinkering with the words, and then it ended up as a radically new version of the song. So I started playing it in my live sets, and then I decided to record it. Eccola qui la nostra Ani DiFranco, l'aspettavamo da un bel po', io l'aspettavo da tempo con un nuovo disco. Effettivamente lei ci ha raccontato che era da un po' che ci lavorava, no Giulia? Sì, ed è divertente perché all'inizio aveva scelto una forma verbale che conosciamo bene, che è quella forma che ci indica che qualcosa è successo lungo un arco di tempo. Quindi lei dicendo well I've been, poi si rende conto che in realtà il disco è finito, quindi è un'azione che è conclusa e cambia forma verbale, cambia e usa il past perfect, il simple task che è worked, quindi dice I worked on this new record over the course of 3 years, quindi comunque ci spiega che ci ha lavorato per 3 anni e che però ora il disco è fatto, finito e quasi questa forma definitiva sembra quasi dire, o così io mi immagino che ne è molto soddisfatta. Tutto nasce da un concerto in omaggio a Pete Seeger, un cantautore, un cantante folk tradizionale americano molto anziano. Le hanno chiesto, I was asked, qui è un'altra forma tipicamente inglese, noi naturalmente non abbiamo la forma passiva, non possiamo dire sono stata chiesta, mi è stato chiesto, invece in inglese appunto è sono stata chiesta, I was asked to, si costruisce con il to, quindi to play al 90th birthday party di Pete Seeger, quindi alla festa di compleanno per il 90° compleanno o magari la 90° festa di compleanno di Pete Seeger. Effettivamente proprio quella canzone ha imparato, questa Which Side Are You On, e se n'è innamorata, è un po' appropriata. Che appunto le era stato chiesto, cioè lei dice ero stata chiesta di suonare questa old song for that occasion, e quindi I learned that old song, quindi da professionista qual è, l'ha proprio studiata, l'ha imparata, e poi probabilmente le è piaciuta talmente che I started playing it in my live sets on stage, quindi nelle mie performance live sul palco on stage ho cominciato a suonarla, perché appunto le era rimasta nel cuore. Credo che capiti a tutti gli artisti, insomma, quando fanno le famose cover, è chiaro che in un certo senso they rewrite the song, le riscrivono, comunque le trovano una, le interpretano, quindi lei dice molto onestamente, insomma, I started tinkering with the words, quindi giocare con le parole, it ended up as a radically new version, quindi alla fine to end up as something vuol dire finire con l'essere qualcosa di radicalmente, una versione radicalmente diversa di quella canzone, una nuova versione radicalmente diversa della old song, che probabilmente anche molto diversa da come l'aveva cantata quel 90th birthday party. Effettivamente è una canzone molto diversa perché è una canzone che appartiene a un'epoca diversa. che però ha dato il titolo a quest'album che lei stessa ha definito sicuramente un album più politico. Ma sentiamo perché. Anne Di Franco. The record, as it was evolving over the years, became more and more political, you know. So the song, Which Side Are You On, is not so much about, you know, not exactly about taking sides as about getting involved, you know. The song is a call to action, you know. It was written in the 1930s by a woman who was trying to organize, you know, mining workers. They were being beaten and jailed for, you know, trying to create a union. And so she wrote it to her fellow workers, you know, saying, basically challenging them, you know, are you gonna be a scab? Are you gonna keep going to work and following orders, even though you know it's unjust? Or are you gonna stand up for what's right? Il significato di quella canzone è un significato, appunto, anche se appartiene a un periodo storico molto diverso, ancora molto presente e molto importante per Anne Di Franco. Sì, dice it became more and more political, e qui sappiamo che quando l'aggettivo è molto lungo, lungo per gli standard inglesi, naturalmente si mette il more, non si direbbe mai politicaler, quindi è diventata più e più politica, e non, lei dice più che proprio, dobbiamo metterci d'accordo su che cosa vuol dire to take sides, che letteralmente è schierarsi da una parte o dall'altra, cioè scegliere una parte o l'altra, letteralmente, ma è it's a call to action, it's about getting involved, che è una cosa forse la più politica delle cose, la più bella, cioè comunque farsi coinvolgere da una causa, da un ideale, quindi call to action e fare qualche cosa, non soltanto farlo, essere coinvolti a parole, ma far seguire delle azioni concrete, proprio letteralmente essere chiamati to action, a fare qualcosa. E tutto questo è anche proprio nel senso della canzone e di chi l'ha scritta. Sì, perché addirittura, appunto, così scopriamo che questa canzone, che è un po' nelle orecchie, ce l'abbiamo tutti, è stata scritta nei 1930s, cioè negli anni 30 del secolo scorso, by a woman, immaginiamoci veramente una pioniera, una sindacalista ante litteram, perché poi infatti ci spiega che she was trying to create a union. Union naturalmente vuol dire unione, come United States, come lo State of the Union di Obama, cioè lo stato in cui sta l'unione, però vuol dire anche sindacato in inglese, e quindi lei stava cercando di creare un sindacato per questi mining workers, per i minatori, che immaginiamo nel 1930 in che condizioni fossero costretti a lavorare. Anzi, la stessa Anne un po' ci racconta alcuni dettagli di quello che succedeva all'epoca. Qui impariamo una parola interessante, che Anne Di Franco ci dice che questa donna she was challenging them, cioè diceva a questi minatori, are you gonna be a scab? Scab è l'equivalente della nostra parola crumiro, cioè colui che va comunque a lavorare anche se è stato proclamato uno sciopero. Quindi lei dice, continuerete ad andare a lavorare, a farvi you were being beaten and jailed, cioè vi picchiavano e addirittura vi mettevano in prigione, oppure are you gonna stand up for your rights? C'è anche un'altra canzone che dice questo, quindi difenderai, starai in piedi, ti alzerai, quindi difenderai i tuoi diritti. La chiacchierata con Anne Di Franco poi è andata su tanti argomenti. Io, insomma, ne ho approfittato perché per me è stato veramente un piacere poter parlare con un artista veramente così grande. E poi le ho chiesto un po' il significato di una frase che ho letto lei aveva pronunciato. Beh, lei non se la ricorda tanto, però un po' ci si riconosce ancora. La frase diceva più o meno ascoltate, abbandonate l'idea di chi sta cantando e di quello che sapete già, di quello che canterà, andate in un altro luogo, apritevi a una nuova storia. Chissà, insomma, se lei questa frase l'ha detta davvero, ma comunque ci si riconosce. Well, yes, I love that. I don't remember saying that, but I think so. I think you're right, you know? I mean, that's the challenge, you know? When you stop evolving, you start dying, you know? So I think, yeah, as we get older, it becomes harder, you know, you get more set in your ways. It's hard to keep reinventing yourself or the way that you think, and to stay open to the world as it changes, you know. But I think that if you do so, it's better for the world and it's better for you. deliziosa Ani Di Franco, io sono davvero di parte, ma lei è veramente una persona con cui è molto piacevole parlare, oltre ad essere splendida la sua musica. Parlava anche abbastanza lentamente, perché evidentemente, insomma, sapeva di essere al telefono con l'Italia, e un po', insomma, la comunicazione telefonica è sempre un po' disturbata. Lei è stata davvero generosa, non si ricordava di questa frase in realtà, però dice, però effettivamente ci può stare, cioè sono d'accordo. Sì, tra l'altro notiamo che è leggermente diverso il modo di dirlo in inglese, perché noi diciamo non mi ricordo, appunto come hai detto tu, non mi ricordo di averlo detto, non mi ricordo di averlo fatto. Invece gli inglesi usano il gerundio, quindi I don't remember saying that, non I don't remember to having said that. Quello sarebbe troppo complicato e comunque sbagliato. Quindi non mi ricordo di averlo detto, diciamo in italiano, però I think you're right, I think so, quindi sì, chiunque l'abbia detto, tu me lo dici adesso, forse l'ho detto anch'io, you're right, hai ragione. E dice effettivamente che bisogna sempre evolversi, bisogna sempre cambiare, anzi lei utilizza un'espressione ancora più forte. Sì, dice addirittura che when you stop evolving, anche qui noi diremmo quando smetti di crescere, invece in inglese di nuovo evolving, quindi quando smetti di evolverti, quindi di crescere in qualche modo, interiormente ovviamente, you start dying, cominci a morire, è il momento in cui cominci a morire, magari senza rendertene conto, perché as we become older, to become, questo verbo molto versatile, no? Che vuol dire diventare, ma anche invecchiare, to become younger, to become older, to become younger è un po' difficile, ringiovanire, però si può fare anche quello, sempre interiormente, invece quando si invecchia si diventa più rigidi, you become more set in your ways, questo è un bel modo di dirlo, cioè diventi più rigido nei tuoi modi di agire, di pensare, e questo non è un bene, secondo lei. E quindi bisogna rimanere aperti al mondo che si evolve in ogni momento. Sì, il mondo, insomma, quello è fuori dalla nostra portata. The world changes, non importa che cosa, se ci piace la cosa o no, e quindi you have to stay open to the world. E questa, forse tu dicevi, parlava piano, probabilmente anche perché effettivamente riflettevano, tu l'hai un po' sorpresa con la sua domanda, lei si è trovata a riflettere su queste cose e se n'è uscita con questa frase ultima che secondo me è bellissima. Dice, se riesci a continuare a keep your mind open, it's better for the world, e quindi è meglio per il mondo, and it's better for you, ed è un bene, è meglio anche per te, e credo che, insomma, anch'io sono d'accordo, I think she's right, e che è proprio così. Bravissima Ani Di Franco, anch'io sono veramente d'accordo con quello che ha detto. Il suo ultimo album si intitola Which Side Are You On. Io intanto ringrazio e saluto Giulia Crivelli, la prossima settimana ti aspetto in studio. Promesso. E ringrazio anche Fabio Cantadori in regia, vi ricordo il nostro appuntamento con English 24 in edicola. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona serata.